Punto 1. Lo yoga. Al giorno d'oggi moltissime persone hanno praticato o stanno tuttora praticando un certo tipo di yoga. Quando si parla di yoga è possibile e naturale pensare a diversi tipi di yoga, sebbene vi sia un denominatore comune, che è il concetto di qualità di vita, dello stare bene, di un concetto di benessere superiore. Sia che si tratti di respirare, fare dei movimenti di allungamento, oppure di mantenersi immobili, allenare la mente all'inattività, oppure semplicemente emettere dei suoni con la voce, ci si troverà sempre dentro al vasto universo dello yoga. Oggi voglio condividere con te quattro specifici motivi per cui ho scelto di porre lo yoga al vertice del mio logo. Primo motivo. La pratica dello yoga, intesa come movimento corporeo, è basata sulla relazione tra respirazione e distensione muscolare. Respiro e distensione, infatti, rappresentano a livello simbolico l'uno la vita, poiché chi non respira più è morto. L'altro, la qualità di vita, poiché quando i muscoli sono distesi si sta molto meglio. Questo infatti è il motivo simbolico, la relazione simbolica che sta alla base della pratica dello yoga e ne rappresenta anche la potenza. Secondo motivo, il movimento crea energia nel corpo. Parlo di energia non in senso filosofico, ma bensì di quella sensazione che si prova al termine di uno sforzo fisico oppure di una fatica. A seguito di una fatica, infatti, ci si può sentire molto stanchi ed è normale, per cui è naturale, concedersi il permesso di rilassarsi. Ma è altresì vero che a seguito di una fatica è possibile sentirsi anche attivati, carichi e molto attivi. Per cui, sia che tu abbia bisogno di recuperare le tue energie perdute, sia che tu abbia bisogno di una forte ricarica, lo yoga è ciò che soddisfa le tue esigenze. I movimenti specifici delle posizioni yoga non rappresentano semplicemente animali e natura come si insegna ai bambini per farli divertire. Essi sono per lo più intrisi di principi di medicina naturale. Chi li conosce infatti per averli studiati e approfonditi sperimentando in modo profondo è in grado di selezionare sequenze di posizioni per alleviare il dolore e migliorare la qualità della vita. Attraverso la pratica dello yoga è possibile riconoscere i propri pattern di funzionamento e reazioni a persone, cose dette o comportamenti subiti. In modo semplice e immediato il praticante accede alle proprie emozioni e si rende consapevole di esse. Per chiunque è fondamentale avere chiarezza sul come mi sento e perché mi sento così. Ti aspetto fra qualche istante al prossimo video dove ti parlerò del concetto di sistemica. Ciao!